24 Mattino. Buongiorno, bentornati. Radio 24, sono le 8 e 19 minuti e pochi secondi. Numero verde per chiamare 800 24 0024. SMS per raccontarci le vostre impressioni in diretta 349 238 6666. Al mio fianco, anche se non lo vedo, Oscar Giannino. Eccolo. E in linea con noi il ministro della cultura Dario Franceschini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Anche narratore, ma oggi non ci occupiamo della sua raccolta di racconti di Sadorna, perché la radio lo tratterà nella sezione letteraria, mentre invece finalmente, per una volta dopo tante cose cattive, abbiamo delle buone notizie, e sono i dati che sono arrivati sul turismo che ci raccontano di un paese che si rimette in moto. Allora, buongiorno Franceschini. Buongiorno a voi. Qual è la valutazione che si fa? Perché ci sono molte motivazioni diverse, un po' gli attentati, il terrorismo internazionale, però il sistema Italia quest'estate è ripartito. Beh, i dati, buongiorno a tutti intanto, i dati sono dati davvero enormi. Il 2016 è cresciuto rispetto al 2015, che si immaginava fosse un anno irripetibile per via dell'Expo. Il 2017 è cresciuto moltissimo rispetto al 2016. Ci sono sicuramente dei dati congiunturali. Più o meno qual è la misura dei dati che lei usa per avere un... Beh, noi misuriamo ovviamente i dati degli arrivi in Italia, parlo di turismo internazionale, e i dati nei diversi settori, di crescita nei diversi settori, e si è registrata una crescita uniforme in tutti i campi. È cresciuto molto quest'estate il turismo balneare, è cresciuto il turismo legato alle città d'arte, sono cresciute anche quelle forme di turismo nuove, sostenibili, di cui noi abbiamo un gran bisogno, legate ai borghi, questo è l'anno nazionale dei borghi, legate ai cammini, quindi davvero una crescita complessiva molto forte, finalmente nel mezzogiorno. Queste cose hanno sono una conseguenza, ma solo molto parziale, stavo dicendo, del fatto che in alcuni paesi del Nord Africa ovviamente sono calate le condizioni di sicurezza e quindi il turismo è diminuito fortemente, ha spostato dei flussi, ma sono numeri piccoli rispetto a un fatto strutturale. Il turismo nel mondo cresce con milioni di persone nuove che entrano nel mercato del turismo globale da paesi che fino a qualche anno fa non avevano turismo in uscita. Penso alla Cina, ma penso anche ad altri paesi che immettono flussi enormi di persone. E quindi la crescita sarà strutturale. Per questo, insomma, il piano strategico del turismo punta a un turismo sostenibile, punta non solo a portare turismo internazionale nelle grandi capitali, Venezia, Firenze e Roma, ma anche nei luoghi che non hanno il turismo internazionale che meriterebbero, ma che sono colmi di bellezza in tutta Italia. Punta a un turismo di qualità che porta ricchezza, non mordi e fuggi. Adesso devono investire i privati. È cresciuta la domanda e adesso servono. Lo Stato non può mettersi a fare alberghi, strutture ricettive, treni turistici. Servono i privati, che devono sapere che possono investire in un settore che crescerà nei prossimi anni in modo strutturale. Allora facciamo l'esempio, ne parlavamo pochi giorni fa, c'è una vicenda emblematica, si parlava di Pompei come il buco nero, il cantiere dei crolli, della negligenza, della guerra continua con i sindacati, dell'impossibilità di uscire da un ritardo italiano. Invece Pompei in questo racconto è diventato un po' un fiore all'occhiello. Beh, guardi, ci sono delle cose di cui il paese deve essere orgoglioso. E parlo complessivamente del sistema Italia. Quando le cose non vanno noi le raccontiamo molto, quando le cose vanno siamo poco orgogliosi, a differenza di altri paesi. Penso ai cugini francesi, che hanno un orgoglio nazionale che nelle occasioni in cui è utile emerge. Pompei era sinonimo di crolli. Io sono arrivato, diventato ministro il venerdì, sabato e domenica sono stato accolto da due crolli. Era un esempio negativo, erano a rischio i fondi europei. Sono stati cambiati il soprintendente, sono state fatte modifiche legislative, ci siamo impegnati a tutti i livelli per mantenere gli impegni europei, abbiamo speso tutte le risorse dell'Unione Europea, a Pompei oggi siamo arrivati a 3 milioni e mezzo di visitatori, sono più di 40 i cantieri conclusi, e dircelo da soli non è elegante. E si sta scavando di nuovo. Si sta riprendendo a scavare, perché a Pompei ci sono più di 20 ettari mai scavati, ma soprattutto i turisti che vanno, i viaggiatori che vanno, vengono via profondamente soddisfatti. Ora, dirlo noi, insomma, può sembrare poco elegante, ma mi ha fatto un grande piacere quando il commissario dell'Unione Europea, dopo l'UNESCO, ha detto adesso Pompei è un modello da seguire in Europa per l'utilizzo dei fondi strutturali. Per una volta noi italiani siamo orgogliosi. E quindi con la cultura si può mangiare, pensare alla vexata questio di sempre. Beh, basta che a mangiare non siano solo dipendenti pubblici, questo ovviamente è il mio intervento ruvido. Sembrate Franco e Ciccio, vi state dando, passando la palla. Allora, guardi, no, dipendenti pubblici, un po' di buone notizie. Talmente bassi che non mangiano. No, ma questo non si figuri, ministro. Allora, io innanzitutto volevo dirle che lei dovrebbe chiedere un riconoscimento, perché insomma, lei, visto quello che scrive da sempre, che senso ha che poi sia un altro il segretario dello storytelling, perché il diritto ce l'ha lei conquistato sul capo, ma è una battutaccia. No, in realtà io le chiedo un commento su un pezzo che secondo me oggi è una specie di sintesi complessiva, tutti gli organi di stampa, ciascuno dal suo punto di vista culturale della linea editoriale che segue, però non hanno potuto fare a meno di osservare quello che oggi Aldo Cazzullo l'avrà sicuramente letto sul Corriere della Sera. C'è una pagina intera come sintesi del decennale del Partito Democratico e le chiedo un commento, perché dice: cosa resta dell'album della famiglia Dem? Da Franceschini a Veltroni si fa prima a dire chi è rimasto, i nuovi non avanzano, un partito senza ricambio. La cosa è ancora più importante. Posso dire? Certo. Io... ci sono tante cose che non vanno, è giusto che i giornali le scrivano, ma dire che nel Partito Democratico non c'è stato un cambio generazionale fa veramente sorridere. No, cioè, Renzi, lui dice sono più i leader che se ne sono... Renzi non è nemmeno parlamentare ancora, è diventato Presidente del Consiglio, è segretario da meno di 4 anni, è cambiato tutto il gruppo dirigente. Alla Camera ci sono decine di deputati che hanno meno di 30-35 anni. Uno mi aspettava una critica, se uno può, rovesciata. Cioè coniugare esperienza e innovazione, ma dire che nel PD non c'è stato cambiato. No, però lei lo sa cosa vuol dire, la foto è Enrico Letta che non c'è più, Prodi che non era invitato, Veltroni che è stato il protagonista di cui si chiede il ritorno, ma che aveva fatto un passo indietro e così via, cioè le tante figure storiche, i leader diversi succeduti, e questo è appunto un partito che consuma la leadership. Guardi che questo avviene in tutto il mondo, a meno che il nostro modello non sia il centrodestra, che ha dal 1994 leader Berlusconi. Buona risposta. È naturale che nei partiti ci sono i congressi, le vittorie, le sconfitte, i cambi di leader, insomma mi pare abbastanza fisiologico, quindi non capisco perché lamentarsi di questo. E mi pare che nel Partito Democratico in questo momento ci sia un mix di esperienza e di generazioni nuove e di continuità, perché la continuità è kingmaker, che è lei. Ma detto questo, voglio chiedere una cosa. Franceschini, oggi su tutti i giornali ovviamente c'è anche il successo della destra radicale, sì, in Austria. C'è una mappa su Repubblica di Ivo Diamanti che dice che questo vento può soffiare anche in Italia. La preoccupa che si va verso una campagna in cui i temi come immigrazione e sicurezza saranno cavalli di battaglia? Non può soffiare in Italia, questo vento soffia in Italia. Il populismo che cavalca le paure di questo tempo, che è pieno di paure fondate, paura della sicurezza, paura del diverso, paura della perdita dei livelli di benessere, paura dell'immigrazione, sono tutte paure che attraversano tutto il nostro mondo, tutta Europa e tutto il mondo occidentale, non solo. E le risposte in vario modo, perché in ogni paese sono coniugate in modo diverso, ma soffiano tutte dentro il vento del nazionalismo e del populismo, dalla destra francese, dai risultati in Germania, i risultati in Austria, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in fondo Trump è un pezzo di questo vento, una cosa diversa, ma un pezzo di questo vento. In Italia è ampiamente rappresentato, non ci facciamo mancare nulla. Minniti è il corso italiano. Finisco il ragionamento, poi arrivo a Minniti. In questo schema la Lega e 5 Stelle sono dentro questo momento del populismo. Allora io penso, e per questo anche rispetto a quello che mi chiedevate prima, che l'incrocio fra una legge elettorale a turno unico, perché il Rosatellum introduce i collegi uninominali a turno unico, quello che si chiedeva da tempo a grande voce, adesso non va più bene, e cioè il meccanismo per cui vince in un collegio uninominale chi prende un voto in più. Di fronte a questi rischi così forti della destra, della vittoria della destra, della vittoria del populismo, io penso che si debbano via via e molto in fretta accantonare differenze, rancori, problemi e costruire un centro-sinistra in grado di battere la destra. Ah, E questo è un messaggio però politico. Ieri il professor Dalimonte ha fatto i conti e ha detto, sì, dicono che, lo diranno fino all'ultimo secondo della campagna elettorale, come ci ha appena detto lei, che Forza Italia e il Partito Democratico naturalmente faranno campagna elettorale perché non possono governare insieme. Il professor Dalimonte fa i conti sono quelli, non sono sbagliati, e dice, neanche prendendo il 40% nel proporzionale e il 70% della vittoria nominale, un partito da solo o una coalizione, ma insomma un polo, ce la fa a avere i numeri, quindi dovrete governare insieme comunque. Guardi, c'era una legge elettorale e un sistema costituzionale che consentiva al vincitore dell'elezione, cioè a chi arrivava prima all'elezione, vero, ma non stiamo parlando di quello. L'Italicum, ma non stiamo parlando di quello. Consentiva, le leggi elettorali condizionano l'esito in Francia, Macron con il 23,5%, sono d'accordo, tra i paesi, in Germania la Merkel con più del 30%, ma non l'ho fatto io quel compromesso, l'avete fatto voi. Il problema è dire agli elettori, sta dicendo che l'Italicum è stato bocciato, sono d'accordo, però quello che non si può dire è governeremo da soli in questo quadro. È chiaro che è più difficile che uno schieramento abbia la maggioranza da solo, ci proveremo in tutti i modi, ma dipende dagli voto degli italiani, non dai sondaggi di... No, dipende dalla legge elettorale che avete fatto, dipende dalla legge elettorale che avete fatto, e se l'avete fatto è perché siete intelligenti e volete quello. Quando ci sono tre schieramenti che sono tutti attorno al 30%, l'unica legge elettorale che consente di avere un vincitore è il doppio turno. Il doppio turno nazionale, neanche il doppio turno di collegio. Sì, sì. Quella legge è stata coperta da un'ondata di critiche. Come in Francia. E poi giudicata incostituzionale, e quindi siamo dentro questo schema. Noi proveremo a vincere. Io penso che per vincere si debba ricomporre il centro-sinistra e poi vedremo. Franceschini, una cosa sul suo ministero. Oggi Repubblica dice una manovra in cui i 4 miliardi sono per investimenti su 20. Lei, dal punto di vista del suo bilancio, è soddisfatto delle risorse che ha e che può investire? Guardi, negli anni della frase che lei ha ricordato, con la cultura non si mangia, il bilancio del mio ministero è stato dimezzato. Questa cosa si è interrotta, abbiamo ricominciato a investire. Oggi il bilancio del mio ministero è il 40% in più rispetto a 2 anni fa. Risorse che sono andate agli archivi, alle biblioteche, ai musei, quindi agli istituti culturali che aspettavano da tempo. Dal punto di vista degli investimenti sul patrimonio, io sono arrivato che c'erano 37 milioni nei residui di un vecchio capitolo dell'Otto. Oggi tra fondi europei, CIPE, nuove risorse di bilancio, siamo vicini ai 3 miliardi di investimenti in corso. E assumerete archeologi? Quest'anno non ho chiesto risorse in più sul patrimonio perché intanto devo portare a compimento centinaia di cantieri importanti in tutta Italia. Ho chiesto risorse sul personale, abbiamo appena stiamo assumendo in questi giorni, finendo di assumere, 800 tra archeologi, archivisti, storici dell'arte, antropologi, cioè tutti architetti, tutte quelle professionalità di cui il Ministero aveva un grande bisogno. Io ho chiesto ulteriori assunzioni perché c'è bisogno di portare molti giovani nel mondo della cultura. Ci sono laureati, ragazzi che sanno le lingue, ragazzi che hanno fatto master, che hanno studiato nel settore dei beni culturali e della storia dell'arte. Noi abbiamo bisogno, mi pare una scelta abbastanza di buon senso. Bene. Sarà notizia e faranno soffrire Oscar, scherzo. Ci fermiamo alla pubblicità. 800 24 00 24 per intervenire. Salutiamo il ministro Franceschini. Grazie. Chiamate, messaggi al 349-238-6666. Ci sentiamo fra poco. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Eye. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. JayGalileo.com. Mattino. Eccoci qui, Luca e Oscar again, cani e gatti, e Giorgio da Bergamo. Tu che animale sei, Giorgio? Che animale sei? Sono un animale triste, sono un animale che si sta sperdendo nei meandri della legge elettorale. Beh, chiaro, qualcuno dice perché non vi schierate, ragazzi, sia io che Oscar, congiunzione astrale, siamo critici con questa legge elettorale, ora che siamo non ci schieriamo ogni minuto, ragione. siamo schierati perché Giorgio non consente agli elettori di contare abbastanza, quindi poco da fare. No, ma certo, il problema poi è quello, cioè io credo di essere una persona in modo immodesto sufficientemente istruita, ma riuscire a comprendere fino in fondo dove sta l'inghippo è sempre molto complicato. Io vi invito a spiegarla veramente tutti i giorni per capire meglio cos'è la legge, la lista civetta, dove vengono assegnati i voti, perché la gente non sa, non capisce. No, ma il bello, ripeto, una campagna elettorale in cui ciascuno del PD e di Forza Italia dirà fino all'ultimo secondo che combatte con uno contro l'altro armato i numeri della legge elettorale che hanno insieme i loro leader varato, dicono matematicamente che quello che dicono sanno perfettamente non essere vero, perché non ce la fanno a prendere i voti da soli ciascuno dei due per governare, ripeto, neanche col 40% dei voti al proporzionale. Neanche se vincono, in quel caso, chi ha il 40% dei voti proporzionali, il 70% dei 236 collegi nominali hanno la maggioranza per governare. Quindi hanno fatto una legge per dire sì, sfoghi, facciamoli sfogare agli italiani, tanto la somma mia e tua batte quella dei 5 Stelle e ci metteremo d'accordo, vedremo la Boschi Premier oppure la Carfagna, vedremo, ma insomma lo faremo questo accordo. È così, cari ascoltatori, posso dirvi il contrario, ma non Giannino, non Telese, sono i numeri della legge elettorale. Ripeto, questa simulazione del professor Dalimonte ieri, secondo me andrebbe ciclostilata e diffusa a tutti gli italiani. D'accordo. Fatevi conti. E per darvi un altro materiale, sabato su Repubblica, Gustavo Zagrebeschi, quando non eravamo in rassegna, ha scritto un bel fondo di cui vorrei leggervi le prime 5 righe. La maggior parte dei commentatori della legge elettorale, scrive, assume come punto di vista le ragioni buone o cattive che siano dei partiti e di chi ne fa parte. Ma una legge elettorale, e qui sottolineo, sono d'accordo, deve essere considerata anche e soprattutto dalla parte degli elettori, i cui diritti mi paiono sottovalutati, per non dire ignorati. Allora, io credo che una legge in cui uno vota un partito e quel voto finisce a un altro partito sia una legge che ha dei seri profili di costituzionalità, e questo è il meccanismo della legge civetta. Se il partito non raggiunge il 3%, alcuni partiti sono fisiologicamente costruiti per non arrivare a questo obiettivo, il voto viene traslato deve avere su un più altro partito a cui è collegato. Tra l'1 e il 3%? Tra l'1 e il 3%. Fabrizio da Micari. Fabrizio Micari, buongiorno, è candidato del Partito Democratico in Sicilia. Abbiamo sentito tutti i suoi colleghi in queste settimane e adesso, siccome questa sfida diventa decisiva per le elezioni nazionali, abbiamo il candidato del Partito Democratico. Micari, sente una responsabilità enorme? Si vota a Palermo, ma gli effetti arriveranno a Roma come un terremoto? Ma guardi, io sono convinto che gli effetti potranno esserci anche a Roma, però intanto l'importanza della sfida è su Palermo ed è sulla Sicilia. Qui si gioca il futuro dei siciliani per i prossimi 5 anni, dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, quindi per prima cosa la sfida la sento con questa responsabilità. Micari, hanno detto che lei è stato scelto da Orlando e gradito da Renzi, le dico le cattiverie che circolano. Poi qualcun altro ha detto che lei è fuori dai partiti, un accademico e quindi non conosce bene le cattiverie della politica siciliana. Che cosa risponde? Ma che io sia un accademico, io sono il rettore dell'Università di Palermo. Quindi certo, questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto, sono certamente un accademico. È assolutamente vero che diciamo l'ipotesi di questa candidatura verso la fine del mese di luglio è nata da una serie di conversazioni con Orlando, questo è assolutamente vero, che ha avuto il gradimento di Renzi, sono tutte cose vere quelle che lei ha detto. Quanto al resto, chiaramente io sono una persona che viene dal di fuori della politica, ho sempre fatto università, 29 anni di università, tuttavia credo che insomma i meccanismi diciamo si riescano ad imparare abbastanza in fretta e quindi ci si adegui abbastanza in fretta a tutto questo. Bene, l'ultimo nodo che le contestano, e poi la lascio a Oscar, che è molto più cattivo di me, è questo fatto, cioè Micari è scelto dalla parte progressista della coalizione, però ha fatto un accordo con Alfano e questo accordo taglia fuori la sinistra, è nata la candidatura di protesta di Fava, quindi molti elettori del PD dicono ma come, ci alleiamo con Alfano e tagliamo fuori la sinistra, MDP, Fava e gli altri? Guardi, l'alleanza con Alfano credo che sia un po' dappertutto, è al governo nazionale, è al comune di Palermo e in una serie di altri posti. Noi abbiamo cercato di mettere su una coalizione che fosse molto molto molto ampia, ed era il famoso campo largo del quale si parlava a fine luglio, quando abbiamo incominciato a ragionare su questa candidatura. Devo anche dirle che i primi a giudicare positivamente la mia candidatura sono stati proprio Sinistra Italiana ed MDP. Se guardate le dichiarazioni intorno al 10 agosto, sono stati i primi a dire che questa candidatura a loro andava benissimo. Dopodiché io non credo di avere mai assunto posizioni da liberal contro la sinistra, ma al contrario ho sempre parlato di lavoro, di diritti per gli ultimi, per quelli che non hanno nulla e così via. Quindi onestamente, se non sulla base di un ragionamento nazionale, di una contrapposizione nazionale che con la Sicilia non c'entra nulla, non capisco completamente la posizione di MDP, di Sinistra Italiana. È un voto, quello per Fava, che corre il rischio di essere decisamente inutile, anzi utile per Musumeci, nel senso che per effetto, diciamo, di questo voto noi potremmo trovarci ad avere, sono convinto di no, però potrebbe succedere, potremmo trovarci ad avere Musumeci e la destra più antica e il vecchio sistema di potere siciliano al potere il giorno 6 novembre. Michele, buongiorno. Oscar Giannino, le voglio fare una domanda su ciò che nei giornali nazionali arriva della campagna elettorale siciliana, e sì, secondo me per un errore profondo, la colpa è nostra, di chi fa informazione, invece di occuparci del bilancio falso della Sicilia, insomma dei guai veri giganteschi di quella regione e dell'autonomia speciale, finisce l'informazione politica in campagna elettorale per occuparsi del colore. Però io le faccio tre flash. Aspetta, tre flash. Questa settimana, una settimana alle nostre spalle, ciò che tutti hanno segnalato erano 12 candidati ed esponenti di spicco del centrosinistra lasciano il sostegno a Michele e passano a Musumeci. Secondo, diversi giornali, il primo era su tutti, il secondo su diversi giornali con tanto le fotografie, il candidato sempre di sinistra di Catania che appende in città i uguali manifesti, il primo di sostegno a lei, il secondo uguale ma sbianchettato il cognome e con Musumeci. Quindi la seconda cosa che è arrivata, ma è sempre questo, quello, cioè, sembra una roba da ficarre il picone, ho capito, no? Però intanto così, oggi ci sono sulla stampa nazionale una dichiarazione di Cancelleri che dice dietro Musumeci c'è una cupola, insomma dei pupari, lui è come Crocetta, il che, attenzione, è un giudizio dei Cancelleri sul prossimo candidato che tutti dicono molto forte al centrodestra, ma insieme sull'esperienza in cui c'era anche il PD e la sinistra di Crocetta. Ecco, questi sono i tre spunti che nelle ultime sette giorni sono arrivati nell'informazione nazionale. È una malattia inguaribile vera? Siete tutti uguali? Perché vi descrivete, guardi, come tutti uguali, questo è il punto. Sì, aspetti, diciamo vado un po' per i vari punti, tutti quanti giusti e importanti che lei ha toccato. Cominciando per la verità dall'ultimo, nel senso che una volta tanto mi trovo assolutamente d'accordo con Musumeci, che poi invece ha con Cancelleri, scusi, con Cancelleri, che poi invece ha tutta una serie di altre responsabilità sulle quali poi entreremo. Però mi sento assolutamente d'accordo. Noi abbiamo visto un episodio gravissimo negli ultimi due giorni, e cioè la coalizione di destra, perché è una coalizione di destra, non di centrodestra, ha perso due esponenti, uno perché gli è stata confermata una condanna a un anno e quattro mesi e l'altro perché si trova agli arresti domiciliari. Eh sì, ma dico, se guardate le liste, diciamo, della destra, vi accorgete che insomma ci sono delle persone che hanno 22 capi di imputazione, c'è un notaio al quale è stato ritirato il sigillo, ci sono delle situazioni veramente estremamente gravi. Ecco, ha perso questi due esponenti, come le dicevo, e Musumeci l'unica cosa che si è limitato a dire è stato io non l'ho voluto a diventare bellissima, per tre volte questa persona era venuta a cercarmi ma io non l'ho voluta, intendendo con ciò che lui è sicuramente il leader di questo partitino che si chiama Diventerà Bellissima, ma che certamente non è il leader della coalizione, intendendo che le scelte per quanto riguarda Forza Italia e quindi poi per il resto della coalizione l'ha fatta sicuramente qualcun altro, che lui non ha nessuna capacità di incidere su queste decisioni, e questo per un leader di una coalizione è assolutamente grave. Quindi che dietro ci siano i vecchi sistemi di potere siciliano, d'altra parte basta guardare la foto che hanno fatto all'Ars quando hanno presentato la coalizione, c'è la storia della Sicilia degli ultimi 10-15 anni. Ecco, questo è il fatto veramente grave di quello che c'è dietro Musumeci, una coalizione che è inesistente, nel senso che è soltanto un aggregato di diversi sistemi di potere e di persone che vogliono continuare a mantenere o ad avere nuovamente un certo potere. Questo per quanto riguarda Musumeci. Per quanto riguarda il resto, io c'è stato questo movimento dalla sinistra alla destra, non tanto dal centro-sinistra alla destra, non tanto negli ultimissimi giorni quanto nei giorni che hanno preceduto la formazione delle liste. E questo è stato anche dovuto al fatto, purtroppo, mi dispiace doverlo dire. È gente che con Renzo Corso del presunto vincitore? Dica... Bravo, no, è gente che fa traditori. Tutto per cercare di avere il suo posto in Parlamento e che quindi, siccome si è convinto, perché ci sono stati dei sondaggi assolutamente falsi e farlocchi che sono stati fatti... Quindi si è convinto che vince Musumeci e vi ha lasciato? Assolutamente sì, ma guardi, se lei... è disperante, Micari, però. Lo so, ma infatti noi siamo diversi. Io sto portando avanti una campagna elettorale completamente diversa. Io ho già pubblicato il mio programma e lo trovate sul sito micaripresidente.it. Io vado a incontrare le persone, ascolto le loro problematiche, faccio delle proposte, propongo dei progetti, metto a disposizione una competenza che ho acquisito in questi 29 anni di università. È una campagna completamente diversa dalla nostra, noi parliamo di lavoro, il vero problema della Sicilia non è se quel candidato un giorno fa il manifesto appoggiando me e poi il giorno dopo cambia. Il vero problema della Sicilia sono i ragazzi che ma sono ci racconti di questo signore, lo conosceva? Questo signore è un signore di Catania, il quale per moltissimo tempo è stato in attesa di capire dove fosse meglio andarsi a candidare e dopodiché ha deciso sulla base... Aveva già stampato i manifesti. Certo, ma sulla base di... ma ci sono state delle altre situazioni, ci sono state situazioni di altre persone che per esempio ad agosto avevano stampato dei manifesti senza mettere nessuna sigla e nessun nome di candidato presidente. Però vede, perché... posso, non per farle un'obiezione, ma per sempre pensando a chi ci ascolta e ovviamente gli arriva solo questo da Sicilia. Quando leggono che a cambiare egida, cioè schieramento, sono addirittura, anche se giovani, persone di responsabilità della struttura del PD, perché anche questo è capitato, si è letto a Catania e così dirigenti. Via. Allora, e ora, no, questo non è così, questo non è così. Era falsa la notizia? No, dirigenti del PD che si siano spostati, questo non è assolutamente vero, non mi risulta almeno. Ci sono stati, per carità, diciamo alcuni giovani che magari, anche se anche lì i numeri sono stati moltissimo gonfiati, questo diciamo a livello di qualche militante insomma può anche essere possibile, di insoddisfazione e altro. Quelle invece sono delle situazioni di persone che hanno una posizione elettorale importante e che cercano di mettere a frutto la loro posizione elettorale. Questo è successo, ma tutto questo è successo perché ad inizio settembre, con furbizia, con sagacia, devo dire, la destra ha messo in giro dei sondaggi che erano soltanto basati sulla notorietà, dalla quale risultava evidente che chi faceva politica da 48 anni come Musumeci era più noto e quindi evidentemente sui sondaggi stava più in alto rispetto a me che ho sempre fatto università e che ho sempre lavorato per l'interesse dei ragazzi. Allora, grazie a Micari, lo sentiremo presto, pubblicità e torniamo, ricordate le vostre telefonate 800 24 00 24, tanti messaggi ancora sulla legge elettorale. Oscar, dovremo parlare un mese qui, fra poco. Patria, traditori, ladri. Mattino. Oscar, ma sembra che il problema dei problemi sia la legge elettorale. Arrivano messaggi solo sulla legge elettorale. Per me che sono appassionato di politica è interessante, ma stupefacente per i nostri ascoltatori. Però si rendono anche conto, iniziano a rendersi conto. Del resto, guarda che, attenzione, noi dobbiamo essere precisi, perché prima gli abbiamo fatto dire a Franceschini che l'Italicum era come il doppio turno alla francese. Ma quando mai? No, magari. No, ma ecco. No, lui diceva la nostra proposta. No, perché questa è un'altra argomentazione che... cioè uno dice, noi avevamo come proposta il doppio turno, non siamo riusciti e allora abbiamo dovuto fare questa. No, ma il problema capito, è... Dove l'hai vista tu la battaglia del PD per il doppio turno alla francese? Ma quando no, mai? Loro dicono non c'erano i numeri, quindi abbiamo rinunciato. E allora rinunciato. Non l'avete formalizzata e non ci avete provato, perché poi questo diventa un alibi. L'avevano formalizzata. No, sì. Ma sono convinto anch'io che sia ma un l'Italicum, alibi. Cioè, non c'erano i numeri. L'Italicum di cui erano felici al punto tale da dirci che venivano da tutto il mondo a studiarla, non l'ho detto no, io. No, quello è stupendo. Perdonami. Ecco, quella era la loro stanno proposta. Stanno venendo da tutto il mondo con, a studiare l'Italicum. Che dopo tutto la francese non c'entra niente. Cioè, non possiamo... Allora, se, finché un politico in campagna elettorale, se gli dici, coi numeri non potete che andare d'accordo e non ti rispondono e deludono, è la cifra di questa campagna elettorale, allora, non ce n'è però, un'altra. Attenzione, perché la cosa che leggevo in rassegna è una cosa che gira da qualche giorno. Siccome in questa legge non c'è un meccanismo di equilibrio che si chiama scorporo, abbastanza complesso, cioè che toglieva dal proporzionale la differenza dei voti ottenuti nei collegi uninominali, è vera una cosa incredibile, c'è un effetto roulette, cioè che se il centrodestra superasse una soglia fatidica che è il 40%, potrebbe prendere il 70-80% di tutti i collegi. Ovviamente anche se questa soglia la raggiungessero i 5 Stelle, però non sono coalizzati, quindi è un po' più difficile che arrivino così su da soli. Invece il tema è che gli apparentamenti delle liste Civetta portano voti alla coalizione degli apparentati. Angelo da Bergamo. Angela, scusa. Buongiorno. Angela, scusami. Che animale sei? Niente, io dicevo che sono veramente incavolata, potrei usare il termine incazzata, no, con il Presidente della Repubblica, perché Mattarella, perché non fa niente per difendere noi cittadini contro i partiti, i potentati che gli stanno dietro e che cercano di togliere la possibilità a noi di votare per chi vogliamo. Io insegnavo educazione civica e ai miei alunni dicevo: tranquilli, se qualche partito cerca di fare il furbo per arraffare voti, perché tanto c'è il Presidente della Repubblica che ci difende e che si muove. Io pensavo a Pertini, figuriamoci Mattarella, e quindi veramente sono disgustata. Oscar, tu? No, il Presidente della Repubblica, dico che il Presidente della Repubblica ha un profilo politico, è un profilo politico di chi è un sostenitore provenendo da un cattolicesimo democratico che guardava a sinistra del progetto del PD, e il candidato, non dimenticatevi, su cui Renzi ruppe il patto del Nazareno imponendolo come proprio, e quindi c'è una certa coerenza politica. Il Presidente della Repubblica, come Pertini, evocato dalla nostra ascoltatrice, erano anche nella storia del proprio partito, il Partito Socialista, capaci di mosse da cavallo matto. Mattarella no, quindi perché sorprendersi troppo? Io purtroppo non mi sorprendo. Allora, abbiamo ancora qualche secondo, ti voglio chiedere, Oscar, secondo te questo compleanno del PD riuscirà poi a chiudersi con una nuova coalizione? Perché Calenda si è sfilato. Calenda si è sfilato ed è noto, le quattro elencazioni dei petali. Qual è la mossa di dei Calenda? Dei petali sono per il momento uno più improbabile dell'altro. Perché no, i verdi ci stanno, verdi però quello che ne rimane. Ci stanno, però voglio vedere se senza Prodi e se senza gli altri. Francamente sono molto, e Calenda molto, qual è la valutazione che fai? Calenda io credo, insomma, lo conosco, lo stimo, credo di dover credere a quello che ci ha detto e che ha ribadito anche ieri dalla, e secondo me è una mossa giusta. I vincitori di queste elezioni saranno quelli che stanno fuori dal mucchio, e credo, perché bisogna fare un governo in campo degli dopo, eletti, quindi, dopo ci sentiamo domani. Minniti, il corso italiano. Cane e gatto è un amore odio, guardi, solo amore. Dottor Jay e Mister Eye, trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. JayGalileo.com vi ha presentato 24 mattino.